Sì, c'è qualcuno in ascolto. CQ, CQ 10, c'è qualcuno qua. Compro qualche animale finto, ma vado a piedi, infatti. O se vede che non cammina da solo, che non è di quelle cose vere, vado a piedi. L'avevo già comprato un pupazzo di blatti, che era tutto fatto a pezzi. Oh, adesso non li durano i pupazzi, li fa tutto a pezzi. La stessa cosa, sì. Su un buon in bocca, un dire, quasi, è tutto rotto. Va bellino anche, era un cagnolino di plastica, anche abbastanza grande, era tutto fasciato. Avevo comprato la palla, lo stesso, era tutta rotta, no? Ma giù una zingodiata pezzo di plastica e affoga, no, no. Oggi si è giugato con uno degli sigarlini, mica si è fatto a beffa oggi. Stamattina si è giocato forte. Perché si inseguono tutti e due, no cazzo, mi ricaviamo un guinzaglio e rubarono di Gito, cazzo. Come ti si acciappano gli vasi una beffa. E così va a giocare il cane allora. Allora va a giocare un guinzaglio. Deve giocare da solo, capire, correre, sapere dove è il pericolo. No, io già lo mollo al mio, però dove è recintato, capito? Che qua è molto trafficato e un giovane di striscia di strada, è un casino. No, non si muovono, il mio cammina da solo, se lo vedo avvicinandosi al marciapiede dico no e lui torna indietro subito. No, il mio le macchine non ci va, però sai, se mai sta giocando, rincorrendo, sì, pericoloso qua. Allora, smintaglio qui all'interno del giardino nostro, oppure nel giardino comunale che c'è lì dove c'è la circoscrizione, capito? Lo so, io se lo voglio portare a correre, lo butto sotto a Rosidu, in chi vive un coso, entra in chi vive e si uga, canto, non l'ho mai portato io, mia moglie lo portava insieme a un altro pitbull e giocavano lì. Ah, io ho capito, c'è la sotto, dove c'è la fontana. E più dall'altra parte, no, c'è un'apertura, entri, perché sennò è tutto chiuso. Io ho capito. Allora, perché non ci sia spazio per giocare i cani, perché i cani devono avere spazio per giocare. Noi contiamo sempre i sottotenuti che stanno a casa, capito? Quando li porti bisogna smintagliarli e farli giocare. Ma quello condo non si è fatto sentire? No, negativo, non l'ho sentito. Sarà ancora dormito, che? Non lo so, se viene questa antenna a Giuseppe oggi un po' tranquillo, antenna Rugavo, mi sa che ci passa per la settimana. E se fa brutto tempo non lo puoi vannutare. No, oppure sono le tegole, non fai a... è pericoloso, e poi si faccia in Dio, è un casino. E infatti quando è così, devono asciugare le tavole, sennò diventerebbero un obbligo a dronzi. Era da fare quella settimana che era tempo bello, invece non erano disponibili, che io non ne ho di scala così. Oh signor! E cosa ci vuoi fare? Attento Valerio, Valerio, l'ultimo figlio, grazie. E invece a servire di più quando va di tempo vero, grazie, non venne nessuno. Boh. Anche a dentro di cucetta. Capito? Stanno tutti al calduccio. C'è freddo mi fuori. No, era un freddo. Sono andato al mercatino a comprare un po' di frutta, c'era freddo. Stamattina c'era freddo, sì. Purtroppo. Io ma te si sono riuscito a ghizzo a pucciarla e sciugare, se no te la fa a casa. No, anch'io sono uscito e l'ho portato presto. Anch'io sono uscito e l'ho portato presto. Però poi verso le 11 sono andato, 11 e mezza, al supermercatino, ho preso un po' di frutta. Mi sono passato a trovare Miglia Catarocchino, un paio di amici in carrozzeria, dopo me sono entrato a casa. Pranzato, riposino, niente, quindi quella. L'inverno è così, Natali, non è che puoi stare in giro. Sì, infatti. Dai, ecco. Nicolino Congo, ah, ci sei? Ah, la succhi dormito, deve accecca. Troppa gamba. Casino. Come dice, piove, adesso manicomio, perché questo capo, questo qua lo devo piazzare. Cosa qua? Poi è un casino adesso, se continua a piovere questo cavo Giuseppe, quando glielo piazzano. Marcello, se continua a piovere, deve aspettare che asciughino le tegole adesso e si fa. Io ce l'avevo, il cavo, tutto, e ora mi ha trattato per la bobina di Sant'Enna io. Quello grosso tu ora? No, quello fine. Ah, sì, vabbè, no. Anch'io ce l'ho un pochino di metri, però me l'ho tenuto, capito? Ah, ce l'ha comprato nuovo. Però bene, bisogna sempre tenerlo qualcosa. Infatti, adesso dobbiamo fare anche l'ispettore nuovo, dobbiamo andare. Ma se vediamo, se l'avessero, se l'avevano fatto oggi lavoro, magari ti sarei salito un po' di settimana. Invece non mi ha fatto nulla, non mi ha detto niente, non mi ha dato neanche un massaggio, niente. A posto d'ora dice che mi va a fare anche l'aria. E qua tutta la sera piovendo, mi ha dato un'altra cosa, pensiamo che piovendo. Più di qua dice stava piovendo. Sì, perché stamattina c'era l'aria brutta, iniziato da lì. Infatti. Mamma mia. Anche non abbiamo di tragedia. Sento qua, allora tu hai scatto. E cosa vuoi fare intanto? Non c'è anche televisione qua, qui l'avevo tolta. L'avevo tolta perché c'era la lotta quella lì. La cameretta delle ragazze mia figlia, quindi ho durato quella lì. E già vai, tanto già vai. Non lo portai in giro, già vai. E nulla puoi fare. Niente si può fare, nulla si può fare. Vado a casa e boom. Hai capito, non c'è posto la vita. Niente, devo ordinarmi la scheda video. C'ho la scheda video che è un giocattolo praticamente, quella che quella della scheda madre sta usandomi. Ah sì, che c'è la doppia, capito? Adesso ne le metto una di quelle PCI Express. È che me la devo ordinare da fuori perché qua costano un botto. Perché Luca non ne ha, non te l'ha procurato? No, si è fatto sentire. E si è impegnato. Si è fatto sentire. Io devo dare la radiale della manto, ma un cavo che c'ho. Come te lo chiamo? Aspettale. E io. Così è. Beh, il telefono sì. Eia, ho finito adesso, dimmi. Nulla, qua sono. Adesso non sta piovendo più. Vabbè, forse. Sì, più o meno sta. Oh, dai, io vado a portare il cane, se non sta piovendo, non parli. Se ci sei, ci sentiamo dopo. Ok? Ok, va. No, approfitto. Come avevo fatto andare Eva. A dopo, a dopo. Guarda, guarda. Chi è avanti? Buonasera a todos. Ciao Antonino. Ciao già. E allora? Allora sì. E è andato a portare il cane Claudio. C'era Claudio, c'era. Io l'ho portato prima, perché mia moglie non si sente bene, allora lo sto portando io. Io so che c'è anche questo, non lo sento sentire. Non si è sentito neanche quel macolino Condo. Invece di notte, capito? La rata pignara. Era la proprio rata pignara, è quella. C'è la notte, mangia di notte. Ma è proprio come più bistrici. È un pipì. pipistrello. Oh, Giannatario, lo sai che mi c'è tracciata latte dalla caffetta della mamma? Sì, già me l'avevo detto. Senza fare che macchia. Mi devo fare il buco, ma già non trovo il momento di farlo. Vado in garage, di un'amica ve lo faccio prestare in garage, perché bisogna anche saldare il piede. Io già c'ho una prolungata a 20 metri. No. Ma bene male sotto casa tua. Sotto casa mia, sì. Lo facciamo dove lo possiamo fare. Dopo ti dico, dai. Ma gente c'hai a casa, perché sento altre voci? È Marco, Marco che sta giocando a montaggio. Ah, lui sì. Saluta Natalino, Marco. Ciao. Ciao Marco. Gli utenti, mi siamo trovati attendo nel letto e lui sta giocando a montaggio. E via. Oggi dopo il fratello gli ho messo la coperta, perché non è mio, lascio sempre la coperta aperta, no, perché lui esce fuori. E l'ho messo che c'era freddo, si è tutto rannicchiato nel divano. E l'ho messo la coperta sopra, ma tu fascia poi. È rimasto fermo, non è che si deve cavare. E beh, ero grido. Ah, ma è viziato, eh. E allora, mi canto solo. L'ho portato giù una tali, gli ho messo il coso, l'impermeabile, per non passarmi l'acqua, dai. Bottino. E però stava piovendo un bello, faceva, sono buttato sotto un albero, poi nel brutticato che c'è, e purtroppo se non ci appusti per andare quando fa la fama così non fanno. Poi c'è Claudio fortunato perché c'ha il coso coperto. Io l'ho già buttato, sono tutto infuso e l'ha già asciuttato. Adesso. Ma che se no da voi si intende mari, perché qua non è fa, eh. Beh, no, adesso lo sai cos'è, delicato, si prende subito la cispa, se prende il colpidato. Io l'ho portato, piovendo, mi so che infuso io, ma si è infuso buio vedo. Natalia, devono andare. Io conosco uno che mi ha detto, no, io quando piove non lo porto, gli metto dei pezzi di carta in terra, lui è abituato, se la faccio la carta. Questo pure è vero. Ma la cara deve uscire, che non è solo per fare bisogno, la cara deve giocare, deve uscire, capito? Non può stare così. E infatti, io l'ho portato e via. Oggi il Comanzano per esempio si è giocato, si è fatto a beffa con uno di cigarlini, mi. Ma quanto è bello di sugani, si chiama Bobò. E anche adesso c'è un cane che praticamente hanno trovato in campagna questi qua e se l'hanno portato a casa, se l'hanno allevato, l'hanno abbandonato. E con questo cane ha fatto amicizia subito, perché rimane in un lungo come è presente il bassotto, così lungo rimane e basso. Ma questo con questo Bobò si sono fatti a beffa, gli abbiamo tolto il guinzaglio, io e il padrone di quello, e si inseguono, si fanno qua, a beffa si è fatto ci mangiare. E cos'è maschio? Ehi, tutti e due maschi sono. E infatti è strano che non si azzuffino, si inseguono e basta. È passato uno con un pitbull e tanto che si stava avventando. Ma stava a casa, ma sei Marco, se ti fanno in mano questi trucchini. Il padrone non è che si è allontanato da quando ha visto così, si è fermato col cane. Il cane se lo stava, il pitbull se lo stava buttando, dopo e fai uomo. E ha paura che puoi andare anche avanti, visto che non vanno d'accordo per andare avanti invece di fermarti, ma non fa nulla, il mio cane è bravo, non ne ha visto di gare. E mi nabizzo quanto è bravo, però non è compreso se gli danno pure altri. Sì, ma cioè, sono quei grossi pitbull, quello lì è uno di quei pitbull, non di quelli bassi, no? E di quelli pitbull americani, di quelli grossi, tutti, belli grossi e alti anche. Isso è mari, ma rasulto. Poi non puoi vedere l'altro animale, mi, e isso è. Piazza la meridiana. mattina c'era questo ragazzino che aveva un bassotto, un tipo le passate, l'ha preso un bassotto ma piccolo, piccolo di 2 mesi, l'ha preso e se l'ha messo in bocca, cazzo, lo stava mordendo, ce l'ha ammazzato. Cazzo, questo qui si è messo a gridare, hanno cercato di togliere, non riuscivano a prenderlo da bocca. Io ero grido. Allora l'aveva fatto, prima l'aveva fredda, c'era uno che c'aveva l'acqua fredda e gli ha buttato l'acqua fredda per mollarla e non mollava. Allora ha acceso un accendino vicino alla bocca e allora l'ha mollata. E allora? Non è teme acqua, no? Ma la sorte. E fatto vedere, ha fatto proprio nell'accendino, lo vuoi qui a dimmi. Praticamente questi qui ce l'avevano accesa l'acqua per bene, no? Se la meridiana giocano i figli a pallone e cose, dicendo l'acqua fredda, anche se la metà ghiacciata. Che se me ne contentato non ha fatto niente. E cosa riguardi? Non è tema, non ho preso cani del cavolo proprio, non le posso vedere se cani russi. No, anche io li temo. Di solito li usano i russici, questa gente così, io ho notato quello. Gente che ci vuole far proteggere proprio di questi spacciatori, se questa gente qua. Perché quella che abitava nel mio palazzo, la moglie dell'ispettore di polizia, stava rientrato col suo Yorkshire, ce l'aveva in braccio e stava aprendo il portone. E' andato questo pittico, gli ha saltato dal lato, ce l'ha portato lontano, gli ha fatto tutto a pitti, cazzo, tutto a pitti l'ha ciappato. Ehi, me l'ha regalato a zia e avrei fatto a pezzi a lui. Subito mi l'avrei sparato lì. Maite stava per farlo, ce l'ho fermato io perché c'era gente che aveva la pistola e sparava lui a pallone. E se ne sono andati via, lo sai, da questo episodio qua, se ne sono andati via dal palazzo, se ne sono andati a pittare dall'altra parte. Perché sennò quello gliela faceva pagare. La moglie non l'ha voluto più restare lì. Sicuramente anche per quello, perché lui c'era la parte che non regge e ce l'aveva sul coso, sulla groppa. Infatti. È andata a me che non ti è parato. Allora, tanto quello lì ha morsicato un bel cane, ha morsicato un bambino, tutti ludibili, neanche lì, si spacciatori e l'avevo detto alla buona anima di Agostino quando era vivo. Così, così e così, ma detto già, noi non possiamo fare nulla, ci vogliono i carabinieri con questa gente, non possiamo fare nulla, non siamo armati. Però le cose duffe, questi cubiti c'hanno, non ho capito se ti avete di andare, ma lo sai dice cosa gli hanno fatto a uno dei nostri, gli hanno bruciato la macchina perché è andato perché si stavano bisticciando due cani e gli ha detto che ha fatto osservazione e poi gli ha fatto la multa e cosa, gli hanno bruciato la macchina. Infatti io ci gasta a mandarli disarmati, ma io... Ehi, le guardie zoffre sono disarmate, c'erano solo alcune cose per leggere il microchip, dopo basta, va a fare per le multe, il blocchetto delle multe, non hanno altro, non sono armati. Ma no, non l'hanno fatto, perché se la meridiana ha preso, l'hanno fermato, e hanno fatto il microchip. E come ha fatto? Pip, cazzo, si è assustato. La babusica. Perché lo cerca, lo ce l'ha vicino al collo lì. Lo cerca, lo fa pip quando trova il microchip. E ti segnala se hai i vaccini, tutto quanto. Dove abita tu. Lo credo. Anche il mio ce l'ha il microchip. È intestato a mia moglie. Non è intestato a me. E vabbè, comunque è meglio che siano così. Invece ci sono tanti che non hanno né microchip, né vaccini, nulla. Lui, chi è da zona di sopra, dove abita Marco, per carità. Almeno i barrancelli c'hanno il fucile, c'hanno. Invece le guardie zoffle nulla proprio. Oh, c'avevano anche la pistola quelli i barrancelli, gliel'hanno tolta, perché il prefetto gliel'ha tolta, perché facevano gli stronzi, si mettevano a farla vedere nel bar, tutte queste cose. E allora nebigliata veniva nebigliata. A che momento giravi in uru, giravi via la bistola. Sì, me lo ricordo, prima li chiamavano guardia venaturia, una cosa del genere. Ah, la guardia venaturia è una cosa, i barrancelli sono un'altra. però i Barrancelli ce l'avevano la pistola prima, capito? Almeno non è su cazzo un che va a ragione di fusili, invece no, devi sicuro a ragione. E vicino a casa non hanno messo le polpette con i vicchi, non hanno provato le guanti zuffide con insieme a, come si chiama, le Barrancelli. Ho trovato le polpette con i viti dentro. Questa ragazza mi ha detto portati a taglio che me la manca pescare. Corre, portalo via da lì, che la stavo portando a vegetare per qualche braccio stamattina. Che ha mangiato la polpetta e ci aveva i viti dentro e mi è crepato. E la gente bastarda, cazzo, mamma mia. E poi dice che a Batimana, alla Pinetta, dove vanno, che c'è il parco, e cosa gli hanno messo i booster? I booster con i chiodi lì dentro. Ah, di l'avevo fatti mangiare. Mara, giù, che gazienti, Mara. Ma forse l'abbiamo messo la bocca, senza caso di ringuzia. Ce l'ha trovato. Ma io stavo facendo la museruolata, non fa portando giù senza museruolata. Tutti mi diceva, ma cosa sta moscicando? No, non sta moscicando, è che ci sono i bucconi e non fargli di mangiare. No, Romeo, non ne tocca la terra, no. La tocca nuda la terra, Romeo. Perché cazzo se lo vedo toccando cosa ricudo? Vedrai che lui non tocca niente. Il mio assolutamente non ne tocca roba da terra, perché non voglio. Ma con Tyson ne tocca, però nel primo periodo non si sapeva se avessero messo dei lumachicini, qualche cosa del genere. E l'erba la lecca, se la mangia anche a volte, quindi se ci sono lumachicini e roba del genere, poi può crepare. Invece con la museruola c'ha proprio la rete davanti, non può passare la lingua perché è chiuso, non può leccare una, insomma. Anche se a me mi faceva male a metterla perché non è un cane che si vince la museruola, però in quel periodo lì non si sapeva che cosa avessero messo. Invece poi mi ha detto questa signora che i Barrancelli con le guardie zuffide hanno trovato più polpette, ne hanno trovato anche sotto le palme dei cespugli che ci stanno salendo dalla meridiana lì, quei cespugli lì, ne hanno trovato tutte le parti sparse. Sono rientrato, ehi, fermate le immagini, gente, lasciate ragazzi, guarda, che male fanno questi animali, non lo so io. Li danno fastidio magari perché li portano giù e abbaiano a certe volte, capito? Quello che li dà fastidio che non li ama gli animali, ciao fra, avanti. Hai detto bene, chi non ama gli animali non ama se stesso. Il mio Natale fortunatamente, come ti sta dicendo Gianni, in quel boschetto, che è un parco, un boschetto comunale recintato, li portiamo tutti lì, i cani. Avevano messo delle sicuramente polpette, qualcosa del genere, roba di carne. Fortunatamente il mio, che non è abituato a mangiare niente a terra, l'ha annusato e forse l'ha leccata. E gli ha avvelenato il sangue. Tu immaginati se la mangiava, sarebbe morto immediatamente il cane, capito? Perché l'analisi è risultato, non aveva ingerito, non aveva leccato, quindi il veleno l'ha preso, gli ha avvelenato il sangue. Tu immaginati che sono scesi tutti i globuli rossi, non c'aveva più globuli rossi, nulla, niente. Il mio deve avere un bene di globuli rossi, adesso mi ricordo sono 4 milioni, 5 milioni, qualcosa del genere, non aveva niente, nulla. Ecco la cura che ha fatto, che fischiava sangue, poverino, sangue, proprio rosso, piano piano, ha iniziato a riprendersi e grazie a Dio si è ripreso anche bene. Poi bisogna stare molto attenti, se trovi, come ha detto Gianni, il cane che è abituato a mangiare roba da terra, se l'avrebbe mangiata, invece l'hanno usata prima, sicuramente, così ha detto il veterinario, perché è risultato delle analisi, l'ha leccata, cioè qualcosa ha fatto, però non l'ha masticata, capito, non se l'ha mangiata, fortunatamente, se no mi sarebbe morto il cane. E questo per la gente che non ama gli animali, purtroppo, perché non fanno il male a nessuno. Però uno l'hanno salvato per miracolo, l'hanno preso per i piedi, gli hanno buttato in bocca l'acqua ossigenata, l'hanno fatto vomitare, però poi l'ha portato al veterinario, ha subito. E gli ha detto, guarda, se non fosse stato quel passaggio lì, il veterinario gli ha detto, sarebbe morto se non avesse fatto quella pane con l'acqua ossigenata. Già, io non me ne sono accorto. Ne sono accorto perché lo controllo sempre, quanta pipì fa, quanta cacca fa. E ho visto che sollevava piano piano la gamba. Ho detto, ma cosa c'ha Fippo? Di solito bene, la solleva alta, alta, niente, non ce la faceva neanche a sollevare. Ho visto che stava facendo la pipì rossa. Immediatamente. Sono andato subito a casa, non gli ho fatto fare neanche il giro perché non ce la facevo neanche a camminare. Sono andato subito a casa, lui che mi è arrivato a casa si è coricato. Si è coricato, in giro dopo 5 minuti, era lingua fuori, ha detto, boh, il cane è morto, il cane è morto. Lo toccavo, non reagiva niente, però respirava. Subito abbiamo fatto il veterinario, gli ha fatto una puntura di quelle, appunto, deve essere per il veleno, non so per che cosa, una flebo, e già ha iniziato a riprendersi piano piano. E così siamo stati fino alle 10 e mezza di notte. Ma guarda, uno spavento allucinante, allucinante. È rimasto qualche giorno un po' debole, però reagiva bene, è stato un paio di giorni che non mangiava, ho iniziato nuovamente a mangiare, e la pipì diventava sempre più... Tutti stava prendendo delle pastiglie, le mettevamo un pezzettino di pane, un pezzettino di wurstel, capito, se non le magna, non le prendeva. Ha iniziato a reagire bene il cane. Allora, grazie al dottor Anfossi, grazie ai vado, perché sennò il cane era morto. Se tardo di un paio d'ore mi ha detto il cane moriva avvelenato. Non so. Sono domiciliari quei veleni, addirittura ci sono delle signore che hanno scattato quegli alberi di pino, che tra l'altro hanno detto i vigili urbani, come li abbiamo chiamati, che non si possono piantare in città perché fanno le radici e sono proibiti da piantare in città. Vabbè, hanno piantato questi pini, nessuno dice niente perché hanno ripristinato un pezzo di terreno che era abbandonato del comune, tra l'altro ci hanno piantato queste piante e non vogliono che ci vadano in carico. E se vanno in cane si mettono la voce. E cosa hanno fatto? L'hanno messo disarmate. Cazzo, questo cane è andato, si è mangiato l'erba per purificarsi e la fatica. Un attimo disarmante, ciu ciu. Pericolosissimo per gli animali, pericolosissimo per gli animali. Per carità, guarda, è andato bene. È andato ben bene. Infatti da lì in quel boschetto lo porto perché non le piace, mi tira che vuole entrare, però non lo smettiamo più. Non lo smizzaglio più, lo tagliamo in taglio, lo scemo e via. Lo smizzaglio solo quando entro a casa perché ci sono i cani nostri, quindi no, non può entrare nessuno a mettere le vieni e ballare qua nella stradina, ma lì non mi gioco più, non l'ho più mollato il cane. Avanti Natalia. Natalia. Uomini! E lui, beh, a TV a danno sta. Sempre, lo pindaccia, sempre, dice devi lì, no, ma in ogni camera, adesso mi... Stiamo aspettando le offerte, e poi te l'ho detto, vado, me la prendo una nuova, più grande di quella, e quella me la attacco a palette qua. Già funziona, è funzionale. Sì, adesso la prendo una adesso, l'ho già riparata ieri, boh. Rimane un po' accesa e poi si spegne. Fa la fece di tra, boh, adesso controlliamo la scheda. Sì, no, io soldi li ho spesi per prendere i pezzi. La mano d'opera a me la devi pagare, cioè praticamente ha funzionato tutto il giorno, poi ha fatto lo stesso problema, cioè prima si accendeva, dopo fai 30 secondi si spegneva anche prima, invece adesso dura di più e si spegneva lo stesso, ma non è lo stesso problema, perché prima si spegneva subito. E non solo, magari è subentrato un altro problema, perché il mio già l'hai visto, non accendeva. E si è andato a colpo sicuro, adesso accende, funziona benissimo, tutte cose. Bravo Gianni, abbiamo a Luca anche esperto in televisioni. Cazzo, ho sentito dire che adesso c'è un'altra batosta per i televisori, che bisognerà riacquistare il decoder per molti televisori perché c'è un altro sistema operativo che stanno programmando, non so se per il 2018. Sì, 2018, infatti. Io adesso me lo cambio il televisore, me lo prendo con il codice incorporato, già, infatti sto aspettando, capito, sto aspettando, lo volevo prendere prima. prima invece me l'hanno sconsigliato. E quindi me lo prendo nuovo, cerco il sistema nuovo al prossimo anno. Capito? Sì, c'è da giorni. È proprio così. Non so che non sa neanche come fare di là. Io facevo possibilità, io la volta che prendo il decoder per quelli che mi dà prima ti compri quello di nuovo. Io ho comprato quello grande che c'ha anche il 3D, c'è tutto qua, quindi Luca mi pare che l'ha visto lui, vero? Tu l'hai visto quello che ho comprato nuovo? Sì, sì, è appeso quello, no? Quello che fa internet pure. Sì, ha fatto, sì, si sì, fa internet, non è 4K, vabbè, Marco ha detto che non è 4K. Sono il 4K già, io ho visto già 4K, tutto, sto aspettando, sto preso, sono già andato da, c'ho Patroni che c'erano le offerte, siccome c'è un ragazzo che conosco, mi ha detto aspetta, non lo prendere adesso, te lo prendilo all'inizio dell'anno, dopo Natale, che tanto ci sono le offerte, dal primo sino al 30, mi sembra, di gennaio. Poi arrivano quelli nuovi di ultima generazione che sono compresi anche il compreso nuovo digitale. Ah, ha già detto, quindi già è vero, ma ha detto sì sì, è vero, è vero. Chi non lo vuole cambiare deve acquistare nuovamente il digitale, un digitale a parte, capito? Ma che costa più del televisore? E non ci mi ha detto Vito, cos'è Natalino? Costa più del televisore il decoder, ti conviene a comprare il televisore nuovo, già con il TVB2. Sì, sì, esatto, esatto, esatto, bravissimo. Infatti mi ha detto guarda che decoder costa un sacco di soldi, quello che c'ho, ho detto quello che c'hai, non lo so, capito, quello che hai riparato tu lui. Quello che ho non lo so, non lo so, quello che ho, quelli che ho, perché ne ho uno grande del salone, e poi ne ho uno in camera, dei due in camera da letto, nelle due camere da letto, quindi vedo casino. No, no, Natale, io me lo compro nuovo già così, come mi ha detto questo Vittroni, capito? Però rimane il fatto che gli altri televisori che abbiamo dobbiamo comprare per forza il decoder se li vogliamo vedere, se no cazzo uno giorno aggiungo. Già, tocca comprare anche il decoder per gli altri televisori. Poi ti costa di più di un televisore, Miro, del code. Non so quanto costa. Se io le leggo su internet queste cose, gliel'ho detto da tempo a Claudio, gliel'avevo detto che devono cambiare il modo di emissione, quindi i vecchi televisori non ricevono più il segnale. Infatti, diciamo c'è stato un vecchio avanti. Sì, buonasera a tutti, ciao Claudio, ciao Natalino, ciao Gianni, Franco, ciao Franco. Intanto non ti avrei conosciuto nessuno. Ci informi di qualcosa che noi non sappiamo? Sì, sì, sì, siccome ho notato che quel discorso che state facendo si presta a tante fregature. Sapere una cosa, che dal 1 gennaio 2017 tutti i negozianti sono obbligati a vendere televisori con nuovo standard che genericamente è chiamato DVD-2, però occhio perché la normativa europea a cui ci stiamo adeguando prevede non solo il DVD-2, il DVD-2 che adesso non mi viene, però anche il codec, c'è un codec particolare, altissima definizione, quindi bisogna stare attenti a non prendere la fregatura che ti danno il codec, cioè che ti danno il televisore con nuovo standard e magari però c'è il codec, non c'è il codec nuovo, quindi sarebbe una bella, come si può dire, diciamo fregatura, da. Quindi massima, dalle massime diffidenze prima di comprare qualcosa, chiedere proprio nello specifico se c'è il DVD-2, ok, il codec ce l'ha quello l'ultimo aggiornato, se no è una fregatura. Fra, io per non sapere di giri scrivi quando vado a comprarlo, prima magari come lo accende, me lo fa vedere se tutte le funzioni sono a norma, capito? Se no ti ordini e prendi già e scusa il telefono. Che non se ne intende, vedi. Ciao, Neofra, buonasera anche a te. dai. Per prendere e per girare, c'è anche Luca Manicomio e una tarda. Manicomio. Quello è strano, perché in teoria ci dovrebbero essere sani i manicomi, ma vabbè, sono tutti fuori ultimamente. Avanti Luca, buonasera, il cambio per te puoi far girare, perché sono entrato giusto per il discorso, perché volevo informare di questa cosa. Sì, ciao Gianfra, buonasera anche a te, ciao anche a Natalino. No, sono qua in stand by che sto saldando. Salda. Ciao Gianfra, buonasera. E glielo stavo dicendo, è un macello adesso. E poi bisogna agitare a compararli, perché bisogna vedere quando lo fanno lo switch. 2025 credo, o 2020. E beh, allora già si ricompariamo a farci i televisori. Infatti non dobbiamo aspettare, adesso sarebbe da passare in anni, non abbiamo ancora capito. Infatti, io aspetto, quando tolgono il segnale vuol dire me lo comprerò. Oh Gianfra, quello vecchio però, che c'ho però, stavo guardando, quando vado avanti, che c'è V1, V2, DG, poi c'è DT, B2, quello lì è? Sì, esatto, è quello lì. Ma non ci vede se metto lì io, perché cosa ci vuole lì? Un altro decoder diverso da quello che c'è al televisore? No, allora, a parte venderanno i decoder, che non si sa neanche poi come siano, se si attaccano ai televisori, se tu te l'hai preso nuovo, te lo metti e monta qui. Poi, dall'altra parte, ci sono proprio i televisori con nuovo standard e con tanto di codec, capito? No, io c'ho quello vecchio, però la funzione c'è già, perché fa V1, V2, DG e poi c'è questo DT, B2, capito? Quello che hai aggiustato tu, quello lì, quindi sicuramente è già predisposto, non lo so. No, comunque adesso vediamo, quando vado a comprarlo me lo vado a provare, fammi vedere se tutto funziona, se è regolare, se tutte le cose sono già matte, se no se ho detto, io che voglio stare già, io ho già portato il cane. Ma tu poi Claudio, non lo devi comprare, il segnale lo tolgono nel 2025, andando al 2025 a Futidini, che è pittina, cosa ti compri, il televisore nuovo e non c'è il segnale nuovo? No, oggi tu quando c'era, il televisore me lo devo comprare nuovo. Natalì, volevo comprare perché questo che ho c'ha già 13 anni, in questa è la seconda riparazione in 13 anni, è un non Grundig, capito, schermocchiato, grande, funziona benissimo, non bene, benissimo, però me lo devo comprare uno, quindi non so se prenderlo già con la nuova funzione o cosa ci di fare, non lo so come anch'io. Scusate se riprendo, sto dimenticando la parte più importante, la rogna grossa non è il televisore, perché il televisore te lo compri e te lo rinichi. Il problema sarà nei condomini, perché dovranno adeguare anche l'impianto d'antenna, perché va via buona parte delle... questa cosa è fatta in parole povere per colpa dei cellulari di nuova generazione, perché le occorre la banda dei 700 MHz che è piena di canali televisivi, quindi questa affare non fa altro che comprimere di più e dare ancora più canali con una più alta definizione, però sparisce la 700 MHz, quindi si è in attesa di avere sfruttati dal MISE per le nuove frequenze che saranno assegnate, quindi logicamente se non è sotto amplificatore eccetera eccetera, sicuramente si dovrà modificare anche qualcosa in antenna. E poi un'altra cosa importante è che con le frequenze andranno per l'appunto ai cellulari di nuova generazione, che faranno il brodo, la pappa asciutta e tutto quanto, così almeno la gente continua a sbattersi con la macchina. Sono già fra, ma sono fatto grande, mamma mia. E infatti l'impianto d'antenna che tu vorrà anche sistemato. No. Doppio, riprendi, doppio. Sì, allora ci passeremo più in là. Là. Ma il problema mio è cosa gli comprare io? Lo compro già di ultima generazione o mi tengo qui che ho visto quando funziona a Parigi? Se te lo devi comprare il compatore direttamente di ultima generazione in casa, però se l'ha ricomprato, scusa, già che la fai la spesa la fai anche per loro. Per me così. E funziona, funziona lo stesso, così è. E questo non lo so. Dovresti chiedere a chi lo sa, io non lo so. Se tutta la domanda funziona lo stesso. E poi magari si attiva il sistema. Claudio, comunque, il televisore deve essere DVB-T2 con codifica MPEG-2. Procederà verso un codec più performante, quindi il televisore dovrà avere questo codec che è l'HEVC, che è ad altissima efficienza, praticamente al cacciatore se ti guardi la partita deve dare anche le conterà i peli sulle braccia, ecco, parlo del povero. Ho capito, quindi allora ragiona mia figlia. Se preme quello poi si è già pronto. Non ho segnato tutto, siamo che noi butti anche. Troppa gappa. Luca, lavorando stai? Senti. Come si adattore ad aria? Stavo filmando una scheda, boh, un televisore un po' vecchiotto, sempre a schermo piatto, quelli da 20-21 pollici, boh. Praticamente dove c'è la scheda al video, lì è bagnato, non c'è umidità, dice l'umidità a casa non ne hanno, io glielo ho sistemato, andava benissimo, poi dice già faccio quel problema che ti ho detto prima, che si spegneva, fa tipo tra e si spegne, e poi l'ha invece al LED dove c'è l'accensione. Esatto, esatto, sì, sì, anche il mio lo facevo. Lo lampeggiavo ma non accendeva, capito? Va bene, asciugalo, controllalo bene, sicuramente sarà liscio. Vai, Natalì. Io non comprerei giunta finché non sparisce il segnale, poi se c'è da modificare qualcosa per le antenne è meglio, almeno non cambio l'antenna del baracchino, sicuramente non entra lì. La speranza è quella. Ma Gianfranco diceva perché ha l'impianto centralizzato, insomma sono spese maledizione, capito? Mamma mia, spero di andarmene prima che succeda tutto questo. E quindi l'antenna singola per i fatti miei, vai Gianfranco. C'è presente che è una cosa per Europa, quindi non è solo l'Italia, perché devono fare questa la nuova tecnologia 5G. Io sono rimasto al 3G sui telefonini, ma questi devono essere in banda 700 la 5G con la telefonia mobile. Quindi è così. Credo che lo switch off, no, non lo switch off sarà da 2020 al 2022, da come stavo leggendo. Però si incomincerà già a trasmettere, penso, da marzo 2018, appena avranno le nuove frequenze. Tutti i televisori attualmente che abbiamo in digitale, vecchio, non sono compatibili, quindi saranno da buttare via. All'incirca 4 milioni di televisori, se li volete, ve li tirare in testa. No, speriamo bene, va, lo devo dire. Adesso andiamo avanti così e poi si vedrà. Vai già. Sì, infatti, stato Agardo ha pulito che si sisteva. Chissà se le pulite ancora. Sì, vabbè, io, aspettiamo. No, io me lo devo comprare, però lo prenderò appunto di prima generazione e poi sarà tutto da vedere. Un problema devo comprare, alla fine c'è il televisore già vecchiotto, quindi cosa, non me lo posso lasciare così. Ti ho detto il cane già portato, l'hai già? No, ancora no, è presto ancora, e poi l'ho portato stasera dopo pranzo verso le 3:30, è così, però stava piovendo e siamo andati sotto un albero, cioè non ha passeggiato né niente, poveraccio, ha fatto solo un paio di pisciattine e poi. Ma io l'ho portato prima, poi ho fatto tutto lo stesso, ma domani mattina lo porto un po' prima, perché se no non cammina già, non cammina, non ci va nell'acqua, se ne vuole tornare indietro, capito? Ho messo il suo giubbottino, capito? Venite così, non prende freddo. C'è freddo a me, anche non ha abbassato la temperatura, ragazzi. Non vedi freddo pure, se non c'è giubbotto invernale, mai. Infatti ne ha giubbato, c'è picca di nuovo. Se domani così mi pongo liscio. Non stava piovendo, adesso sta di nuovo piovigginando qua, nella zona alta, fine, capito? Perché non c'è vento e quindi adesso cane a posto, si abbia le luci. E me Gianfra, a parte queste cose, cosa ci dici? Ah, io ho proposto di passare tutti qua di nuovo. Che è la cosa migliore qua. Tutti qua, via. Ormai con un po' di fortuna ci mettiamo anche un ripetitore. Tanto con tutti quelli che ci sono su che non servirà a nulla. Ah, sì, quando è entrato lì? Davanti c'era una bella ruota. Sabato, adesso mi ricordo che è lunedì, ci ho messo già l'orientamento. Io sono già andato, l'hai saputo, no? No, fra, che cosa? Io sono già in pensione. Poi la auguri allora. Auguri. No, io non ci vado invece, prevedo intorno al 2030, 2040, se ci sono. Ehi, vabbè. Sempre lui comanda, noi che comandiamo noi, no? Va bene. Come oggi stamattina ho portato gli ultimi dettagli al patronato da mandare all'Inps. Penso che dal 1 gennaio mi diano pensione. Adesso ce ne stiamo pure. È che è una fatica passare la mattinata. Una fatica, stamattina era la vettura, sono portato i segni, poi sono tornato a casa, poi sono tornato ai segni, poi sono andato a trovare mio amico carrozziere, poi sono tornato a casa, non passa più la mattinata, non passa la mattinata, il pomeriggio è tranquillo perché sono abituato, ho comprato, riposino, sino alle 4 e mezza, alle 5, poi ti siedi qua, due chiacchiere e passa, ma la mattina è lunga, mamma mia quanto è lunga. E tu già non stai facendo più turni? Sì, no, mi hanno cambiato di nuovo i turni, mi hanno dato una volta alla settimana di sera, ti ripeto i giorni, sono di mattina adesso. Perché ho fatto casino, se no mi lasciavano di sera. Ma infatti hai fatto bene, hai fatto bene, un orario un po' particolare quello, no? Che sia un orario da persone civili, capito? E vai a trovare la fissa, hai un po' di sera, no, te ne vai. Il fisco va a lavorare dalle 5 del mattino fino alle 2 e stare a lavorare di sera, proprio 0 sotto 0. Sì Gianfra, è andata. Oggi ho fatto dalle 8 alle 2, domani faccio dalle 8 alle 3. Dalle 8 alle 3, va bene già, più o meno gli orari erano quelli anche miei, anzi a noi ce l'hanno cambiato, anzi a loro li hanno cambiati, io già non voglio andare più dalle 7 e mezza alle 2 meno 10, quindi tra una cosa e l'altra io sarei arrivato a casa alle 2 e mezza, 3 meno 20. Sono bravo, ma tu ce l'hai la mia aspetta. Io? Sì. 58 ne ho Gianfra. Ehi, allora sono molto più vecchio io. Così vecchio, però... storico Ips, no storico di buccia di gioco, a storico Ips io ho iniziato a lavorare nel 1976, capito? Dal 76 all'81, quindi mi hanno abbonato due anni, se non li dovevo fare, mi hanno dato due anni per lavorare come lavoratore precoce, ho iniziato a 16 anni. Io nell'81. Già, io ero convintissimo, anch'io nell'81, ero convintissimo al 100%, infatti ho detto due anni me le devo lavorare, e quello ti dicevo sempre mancano due anni. Poi tramite un collega che è andato in pensione, ha fatto 60 anni è andato in pensione, ha detto crai informati, ha detto beh, sono andato, sono spaventati, dal 1976, cooperativa Quattro Muri, SRL, Porto Torres, che Gianni, se mi spacchi la testa non so manco chi è. Non te lo ricordi più cosa faceva questa cooperativa? Già, stavo parlando con Antonio Giuseppe, un falconero, l'altro giorno, secondo me perché io ho iniziato a Porto Torres quando c'era ancora la CIR, però io mi ricordavo che ero barista al Bar Cristallo. Mamma invece si ricorda che lavoravo in una azienda praticamente, in una ditta esterna della CIR, sicuramente quella cooperativa che faceva le manutenzioni al pontile dell'Ediche, adesso chiamato pontile dell'Ediche, prima era pontile della Siena. Capito? Sicuramente è quella lì, sicuramente è quella, perché è un SRL, capito? Un 76, un SRL già era una cosa abbastanza grande. E c'è scritto lo storico cooperativa Quattro Muri SRL Porto Torres dal 76 all'81. E tu non ti dà me, ti è viziato. Però voglio ricordare tutti i lavori che ho fatto, ho lavorato la Temi, infatti ho anche le buste pagate la Temi, lavoravo con la caravan all'interno della Temi. Già, io mi ricordo vagamente di questa società, capito? Perché poi ho fatto dall'81, cioè dal 76, nel 79 sono partito militare, quindi ho fatto 76, 77, 78, 79, 78 diciamo, poi sono partito militare dal 79 all'81 e poi sono rientrato nuovamente a lavorare, capito? Perché per me il problema è già che ho sempre lavorato assicurato, perché mi hanno tenuto anche il posto di lavoro, perché poi quando ho finito il militare nell'81 lì a Porto Torres erano già finiti i lavori e quindi avevano licenziato tutti e io fortunatamente tramite Violelle Urru, già lo conosci, quello che abita via Sassari, il cugino di mamma in primo grado, lui stava lavorando era capocantiere con Benassi, con la SCI, società costruzioni immobiliari SRL, con Benassi hanno fatto tutto il villaggio di Porto a Porto, quello grande che c'è sulla strada, poi aveva altri lavori, la marmorata eccetera. Ma tu vuoi venire con me? Ho detto io portami di Olè e sono andato con lui e ho anche quello, tutte le fogline paghe, allora, e lì avevo fatto un paio d'anni lo stesso, un paio d'anni. Dopo da lì, quando è finito il cantiere, il Diolè mi ha detto se vuoi venire dobbiamo andare fuori. Ho detto no Diolè, non mi rimango qua. Tramite mio cognato sono entrato a Cagliari, alla Saras, capito? E da lì poi ho preso la via che ho preso, praticamente questa. No, io già ne ho fatto di preci, vabbè, non tutti con la circolazione. Da ragazzi, in estate io lavoravo sempre da Chiesi, Angelino, quello che c'era a Serra Secca, non so se te lo ricordo, porta Valentini. E io che non ha conosciuto Angelino, che io già sono dall'83 qua io. Nel 83, dopo l'ottobre, già se ne era finita questa cooperativa, la chiamava cooperativa, non mi ricordo Angelino, no, io ho sempre assicurato, infatti la fortuna mia è quella, se no almeno altri 2-3 anni dovevo lavorare, invece è andata, dai Gianfra, adesso appartengo anch'io alla famiglia di quelli nulla facenti. No, la verità adesso io in teoria ci potrei andare tra 3 anni, 3 anni e mezzo, una cosa del genere, però mi sta prendendo una brutta malattia, ho paura in parole povere, perché ogni volta che chiamo qualche collega, amico che è in pensione, questo dico dove sei, e beh, aspetta, ma stai facendo, sono qua in Piazza d'Italia, no, ma mangi vedi a me in Piazza d'Italia. Ma neanche se mi spari, se per fare con la fine mi rimango altri 10-20 anni finché mi buttano fuori, dai. Basta trovarselo da fare, tu che c'hai la casa in campagna, ti coltivi qualche cosa, ti passi la giornata. Ti vorrei tantissimo dare ragione già, ma non è così. Quando si sente attivo ancora, quando la giornata al lavoro ti vola, qua invece anche quando c'è da fare, con una scuola all'altra, lo faccio domani, e oggi non ho voglia, domani sta piovendo, e stasera c'è umido, e quindi già lo sai come vanno a finire quando sono cose tue. Mentre invece di là sei obbligato a fare quelle cose, e quindi ti passa, ma poi no. Soprattutto in questo periodo, no, che è inverno, che non può neanche uscire frequentemente in bici, perché a me mi piace, però non la sento così necessaria. Mi fa un po'. Mi fa figli già da un anno. L'ho trovato e ho detto, beh, come se fai i figli in pensione? E ho detto, beh, com'è questa pensione? Ah, già, io me la sto godendo, sto facendo tutto quello che non ho potuto fare prima, tutti i miei hobby, tutte le mie cose. Mi piace suonare, abito in campagna, quindi c'ho il tempo per suonare, per fare. Anche come la prendi tu, come ti organizzi la giornata. Se tu hai dei dubbi, riesci a proprio approfondirli, a farli come vuoi tu, capito? Tipo la fotografia, la pesca, non ti posso dire, tante cose, anche andare a giocare a tennis, non ti posso dire, qualsiasi cosa. Lo so, ma non io ho un carattere, devo sempre muovermi, fare qualcosa, non... poi di là ci sono tanti amici, capito? E anche quello, stare con altra gente, forse anche perché molti sono giovani, io ho uno spirito da giovane, scherzone, eccetera, quindi stare... diciamo, non me la sento. Poi magari, sai come, quando inizia a passare 60 e magari gli acciacchi si fanno più pesanti, allora può darsi che mi piaccia o no, me lo provo a segnare, però finché dura, diciamo, ci provo. Tu fidati che io quest'anno non ho fatto neanche le figlie, sto dicendo tutto. Ma perché quando voi siete questo rumore? Chi, io? Io sono che lo sento. Non so, guarda, che rumore è? Non si può la fermare. No, ma l'antenna, come cazzo? Sì, l'antenna ce l'ho. Non lo so, forse entra in funzione la ventola. Tra l'altro la potenza anche bassa, però è strano. Claudio, tu la senti questa cosa? Io ho un problema attuale, non sento niente. Io sento una ventolina in lontananza, ma niente di che. Abbastanza tutto regolare, segnale 9:20, tutto a posto. Non so cosa sente Gianni. Cos'è? Che rumore senti Gianni? Allora, fa alzare il telefono tuo, Marco, spegni un attimo il telefono, che voglio vedere. E allora praticamente io poi mi sento benissimo, tranquillo, lui come mora, sento. No, è lì da te, già, qua non sento niente, sento la ventola e buco. Strano. Non c'è, poi c'è anche il telefono, qualcosa che c'è acceso, il tablet, qualcosa, non so. Adesso provo. Un po' appena premo su questo, scatta questa cosa, benché siano anche 5 watt, ecco, la allontana anche un pochino, se poi avvicino anche la voce, cioè al microfono, perché dal tavolo, quello nero, claro, quelli soliti che conosci tu, no, che hanno tante marche che provano bene, la V, come diavolo, si la V8. Esatto. Io sento una scarica proprio adesso, Gianni, non è che sia quella, no, nel sottofondo. Il telefono di mio figlio, va, ho capito adesso. No, no, è qua sul canale in frequenza, non la senti questa scarica, proprio tipo per rifrontare. Quello è che sto dicendo io. Ma è in banda, è qua, capito? È sul canale. Quello che fa oh, quello che fa. Sembra una macchina, per il codice quando si baracchino non c'era l'NB. Sentiva questo tipo motorini. Sì, come quando lo mangia fa giù, la stessa cosa. C'è sempre. Ci sono. Un mentre passo da a livello del QRM, quindi supera questo rumore. Sì, no, io lo sento bene, non ho fastidio anche a me. Infatti pensavo fosse il telefonino di Marco, perché l'ho fatto allontanare, perché non lo voleva spegnere, perché sono talmente attaccato al telefono che, per carità, quindi di spegnere il telefono è come dare una pugnalata al cuore. L'ho fatto allontanare un attimino ed era quello lì. Cioè, praticamente come riuscì a allontanare non sentivo più il rumore. Sì, poi questi ragazzi non capiscono che fare ore con un apparato trasmittente ad alta frequenza, perché quelli lavorano anche sui 1200, no? No, sui 1800, un po' anche più alta. stare lì tutto il giorno, lo sta a fare sulle mani o magari vicino anche alla faccia, alle orecchie, non è certo il meglio, perché sono giovani e lo fai oggi, domani, dopodomani, interrottamente è altro che radiografia. Faccio tutta la radiazione che si prende. Faglielo capire, Gianfra, faglielo capire se lo capisco. Allora, oramai siamo nel mondo virtuale, non esco più da casa, sempre al computer, sempre al telefonino. Infatti è una cosa brutta, veramente brutta. Bisogna stare molto attenti nelle strisce, perché la maggior parte passa senza guardare. Quindi adesso io vicino alla scuola ne vedi gente a traversare con questo telefono, vanno al bar, a posto di godersi serenamente la colazione, eccetera, li vedi, non mangiano ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Che poi io ho occasione anche di vedere quello che si scrive di lì, ma no, guarda, me ne calano le braccia. sono in bagno, sto uscendo dal bagno, e che strano, oggi ci sono andato una volta sola, cioè, ma ti rendi conto? Cioè. Ti metti a sbirciare. No, a sbirciare no, non lo sa niente, ma lo vedo sui cosi Facebook, perché sempre lì mi... poi il telefono non capiscono una mazza, purtroppo il problema è quello. Cioè andrebbe bene se poi fossero ai tech al massimo, però le dici che sistema usano, come sono costruiti questi telefoni, Sì, perché a loro l'interesse di loro è quello di socializzare su internet, di conoscere gente nuova, eccetera, capito? Non hai visto quello zingaro che praticamente si è rimorchiato con la ragazza dicendo di parole dolci e cose a Roma? Poi la legata l'ha violentata quando si sono trovati. Scusate, sono rientrato. Non hai capito, Gianfra? Questa qui ti diceva parole dolci, la intenerita, eccetera, poi ti hanno detto di conoscersi, ed era uno zingaro, uno slavo che fa, la legata e la violenta. Sì, l'ho letto, ma ti sto dicendo che è una cosa esasperante, figurati, la polizia ce l'ha accesso libero praticamente, no, a filo. La prima cosa che fanno oramai, mica si muovono dall'ufficio, fanno, comprano gli account, vedono tutto quello che c'è scritto, te lo pubblicherò in 2 minuti, è come quelli là, quelle baby gang che hanno acchiappato lì, ci fanno il filmatino mentre incendiamo le macchine, fanno danneggiamenti e lo mettono su YouTube, su Facebook. 5 minuti dopo c'hanno la polizia a casa. Cioè, ma capisci che non c'è neanche l'intelligenza di fare le cose, sono anche tonti, ma sono tonti un bel, però riprendi qualcosa, deve essere un altro Luca. No, sono qua e devo controllare Filippo che non lo vedevo. Scusate, no, sono qua. Fa differenza, allora il microfarad, vabbè, la i volt sono 4,50, però i microfarad sono 100, invece quelli originali sono 6,80. Mi fa qualcosa? Gianfra, rispondi. Ero distratto, ho capito, ma è superiore o inferiore di molto? Poi dipende da su che circuito è piazzato. Se hai detto che è un vecchio televisore che c'ha ancora il cinescopio, magari potrebbe fare una grossa differenza, ma se è sulle tensioni nominali solite, basta tensione praticamente, non dovrebbe fare niente, l'importanza è il valore. No, allora, televisore di quelli non è vecchi, però non è tipo di 2 anni fa, faccio un esempio, no? Di qualche anno, schermo piatto, la scheda è una scheda, switching, come la vuoi chiamare. Allora, quelli grossi non è che dipende da lì, perché non caricano e poi manda tutto in tilt, perché ne ho riparato un altro, lo stesso, di mia madre, grande, per la Samsung, ed era quel condensatore grosso, cioè come cavolo ha fatto a scoppiare, non ho capito. Comunque, da quando ho cambiato quello non si è più spento, questo è lo stesso problema. Dovevi staccare la spina lasciando un po' riattaccato, poi come si riscaldava e poi si spegneva. Comunque niente, questi qua, i suoi originali sono da 680, 680 microfarad, invece questi che sto mettendo io sono da 100. Beh, da 680 microfarad, tu lo stai mettendo da 100 microfarad, o volte intendete? No, 100, 450 sono, 450 a 100. Allora fammi capire, no, dunque, 450 microfarad e 100 volt? No, 450 volt, 100 microfarad. Perfetto, e quello che ci stai mettendo? Allora, quelli originali che sto levando sono da 680, 680 microfarad, sempre 450 volt. Quelli che sto mettendo nuovi sono da 100 microfarad. Beh, guarda, su quello, sul voltaggio identico potrebbe andare bene, ma dipende dal tipo di circuito che c'è, perché di norma sui condensatori, diciamo, le tolleranze non è che siano così grandi, è un po' come può capitare nelle resistenze. Se si tratta di qualche decina di ohm va anche bene, anche qualche cosetta in più, anche qualche centinaio si può reggere a seconda del circuito, però sui condensatori, se non ho progettato un quel valore, è sempre per avere delle specifiche di tolleranza particolari. Comunque quello di mio padre l'ho messo leggermente più grande, mi sa che era 450 al suo 50, invece quello che ho messo io era 450 800, ma subito non so 800, 450 150. Sì, è così. E comunque tieni presente che soprattutto sugli alimentatori switching, dopo un certo periodo l'elettrolito tende a gonfiare i condensatori, che si vedono che sono gonfi, o anche sulle schede madri che sono per voltare visto. Ed è proprio perché le fanno quello che chiamano l'usura programmata, praticamente. Dopo un certo periodo i vari componenti si devono guastare, così almeno tu vai te lo compri nuovo. È un po' il difetto delle tecnologie moderne, capito? Mentre invece sulla roba seria, professionale, eccetera, succede viceversa. Per far sì che non succeda, sono sovradimensionati. Quindi se di lì ce ne metti uno da 100 normalmente, che poi non gli frega niente se si gonfia, sugli altri ne mettono a 300 di quelli d'altissima qualità. Purtroppo è così, la durata media di molti tipo telecamere eccetera è due o tre anni, poi defunge. E va pure ci provo, tanto televisione è andata a farsi benedire. E beh, senta la noce. Vero Claudio, oramai con queste cose nuove, se telefonine eccetera, hanno un'età di durata, ma anche proprio tecnologica bassa. Mi sembra troppo basso, Gianfranco. Beh sì, basso, ma si è detto che tanto è da buttare questo televisore, se lo ripara tanto meglio. Io le ho detto, la tolleranza dipende dal progetto sempre, dal circuito che c'è. Poi, da vedere, certo metterne uno uguale non dovrebbe, cioè sarebbe meglio, ecco. Anche secondo me. Invece ha verificato e deve avere fatto rumore. No, non lo sta più facendo, non lo sentivo anche Gianfranco, l'ho sentito che era sulla frequenza frutta, io lo sentivo magari più amplificato. Ehi boh, volta non lo fa quando arriva qualche messaggio sul telefonino, qualcosa accesa. Però no, non sentivo altro. No, ma quello, il telefonino fa tu, invece questo qui faccia. Lo sai cos'è quello? Quel rumore che si sente, a parte la modulazione digitale eccetera eccetera, però quando sei in macchina ad esempio e c'hai un autoradio non molto schermata e ogni tanto senti tr. E vabbè, quanto non si senta più poi, va bene. Ma è Natalino che fino ha fatto? Natalino! È andato a comprarsi la televisione di nuova generazione. Io infatti, alla fine. 10 anni, 12 anni, ma niente di che, quindi non accendeva, l'ho fatta a Luca, ha cambiato condensatore lo stesso, e adesso è perfetto, anche l'altra volta era la stessa cosa, però non ha mai avuto altre riparazioni, capito? Sì, ma tra poco, siamo già arrivati a un'epoca in cui la roba non si ripara più, perché è più costosa la riparazione che comprato da nuovo. Basta farsi un giro ad Alfa, vedere un po' i televisori di tutti i gusti, di tutte le marche, e spesso alcuni economici superano anche quelli grossi, perché hanno più accessori, hanno la scheda di rete, hanno funzioni che gli altri fanno fare il doppio. Così, poi se si guardano si vanno, cosa devi fare? Andare a pagare 200 euro di riparazione, perché poi il lavoro è grosso, perché devi lavorare con la lente, anzi adesso ormai con il microscopio, perché sono sempre più piccoli la componentistica, o le stacchi tutta la scheda e ce la rimetti, se la ditta te la manda, oramai è una cosa chiusa quasi, dai. Praticamente accende e dopo un po' stacca, dai, non sono con quelli, era proprio un problema, vabbè, avrà i suoi anni anche. Fa in protezione. Sì, diciamo di sì, dai. Comunque io ho asciugato la scheda, praticamente la scheda video, là, diciamo, lì c'è una specie di processore, lì era tutto bagnato. Allora qua, ho preso una riaccata e l'ho asciugato, e questo ha funzionato tutto benissimo. Adesso siamo in corto, boh, c'è una cosa che è in corto. Se tecnologia SMT può essere qualche diodo anche, è fatta la pesca lì, se non c'è tutto il circuito, ma poi se usi il vecchio il lavoro non vale la fatica, il tempo perso, capito? Vabbè, io adesso glielo dico che i pezzi sono stati cambiati, io l'ho dato che funzionava poi. Infatti, miracoli, fino a un certo punto, poi ripeto, anch'io ci ho rinunciato, prima ci mettevo mano, adesso non li vedo proprio. La vista sta andando sparendo alla nostra età, poi vero Claudio, anche a te te lo fa mezzo cibio? Io gioco il cieco del dutto, io manco a saldare un connettore radio, ci vedo più, solo il PL riesco a saldare, basta. Infatti che fastidio che mi dà qualcosa, soprattutto a me che mi si rompono spesso questi impiegati di PL, BNC e compagnia cantante, perché sono all'esterno e quindi di beccano un casino d'umido, li puoi prendere buoni, anzi buoni si rompono prima, sono quelli professionali fatti tipo N, no? I PL che hanno la guarnizione, professionali pagati un pacco di soldi fatti in Germania, ho tolto tutto di nuovo, per carità, guarda, un casino. Poi la vista ti fa saldature piccole e ti fa incazzare, basta, non ti rassegni, perché prima saldavi anche il cappello, adesso il cappello, anche se c'è la masferma, non lo vedi proprio. E così, e tu già come stai a vista? Ma io da lontano vedo benissimo, da vicino devo portare gli occhiali, vedo bene con gli occhiali, ma senza occhiali ho difficoltà. Anche io sono così, da lontano vedo benissimo, non c'ho bisogno di niente, ma da vicino sta andando e peggiorando, mese dopo mese me ne rendo conto. Devo passare anche la visita per il lavoro, perché ce la fanno fare, per vedere com'è la situazione, ma ho detto forse è meglio rimandare, perché già ci ho rimesso 100 euro per gli occhiali e poi adesso non vanno neanche più bene, a distanza di appena un anno, quindi lasciamo perdere, da ciccia, cosa vuoi ti dire? Si è acceso comunque, ci ho detto che con i saltori che ho messo nuovo, che hanno caricato, si è acceso. Di norma lo dovresti lasciare acceso un bel po' per cosa succede. No, proprio acceso lo schermo adesso, adesso l'ho piatto e lo metto in funzione. Magari asciugando forse riuscito ad eliminare il corpo. Capita. Sai come c'è, l'elettronica, poi queste schede è un casino, basta un componente piccolo e solo un tecnico bravo riesce a ripararlo. se si assina, ma di solito i tecnici bravi cambiano direttamente la scheda. E poi sono andato anche su internet per vedere se c'era, ma niente da fare. Vabbè, tornando al discorso del nuovo segnale digitale, cos'è, come funziona? Che non è solo il protocollo che cambiano praticamente, cioè è tutto un ex novo, capito? E in più c'è anche un codec particolare ad altissime prestazioni che consente la cosiddetta ultra definizione, praticamente vedi meglio in televisione che dal vivo. Quindi, e poi c'è il problema delle frequenze, perché quelle attuali da 690, adesso non lo ricordo più, 690 a tutta la 700 praticamente sparisce. Quella lì andrà per il 5G dei telefonini, tablet e compagnia cantante. Quindi è una rivoluzione abbastanza grossa anche in termini di ripetitura. Ah, ecco. Cioè, dalla serie che te ne dovevamo già altri soldi. Vabbè, io ho un televisore della Panasonic che ha di vita 3, 4, 5 anni, è nuovo, schermo piatto, poi non so, ci vorrà aggiunto questo digitale, così, cos'ha? Ci vorrà mettere un decoder, se ne vale la pena. Ci metti il decoder e ti riaccampavo, ma hanno fatto molti che c'erano il famoso cinescopio, l'hanno utilizzato finché quando il televisore l'hanno buttato via, ecco. È così, quindi, però ripeto, chi l'ha preso nel 2007, perché c'era la normativa, tutti i negozianti erano obbligati a vendere già nel gennaio 2007 i televisori con annesso nuovo standard, quindi in teoria sono dei televisori praticamente dual band. Adesso bisogna vedere però la certezza che sarà nel 2008, quindi al prossimo anno, del Ministero dello Sviluppo Economico dell'assegnazione delle frequenze, perché in Italia, anche se non è noto, c'è un grosso problema che noi siamo circondati dalla Francia, un po' come succede anche su queste frequenze e anche sulle nostre in alto, siamo circondati dalla Francia, dalla Slovenia, dall'Alta Italia, dalla Svizzera, dalla Germania, che hanno le stesse frequenze, quindi siamo soggetti anche a molte interferenze. Quindi bisogna vedere cosa decide il Ministero proprio per assegnare questi canali, nuovi canali televisivi, e quali saranno, come saranno, e la larghezza di banda che saranno, devono essere sempre inferiori a quelle attuali, quindi figurati che tratta di codec e anche che latenze ci saranno probabilmente. È della serie che devi spendere comunque, ma buono. Tanto. Oh, yeah. Sempre a cambiare. Vabbè, diciamo che in digitale i baracchini già è una cosa buona, però strano che Natalino non entri anche in digitale. Io da quando ha cambiato in digitale terrestre sono più disturbato, in analogico mamma mia. E poi il bello è che disturbavo solo a uno solo, del resto a nessuno, poco a casa mia, ogni tanto a casa mia quando piovevo, ma poco e niente, quando andavo nei canali alti però. Hanno le antenne incasinate, ecco perché li entro, se no io non disturbo nessuno. Sì, io non so se voi ve lo ricordate, nell'epoca d'oro prendevano quei televisori della Rex Zanussi, sicuramente Claudio se lo ricorda, che praticamente potevi fare quello che vuoi, anche a radio spenta li disturbavi e non entrava nel video, entrava nell'audio a tutto volume, perché non avevano schermato la parte audio e praticamente sulla parte di bassa frequenza potevi fare quello che volevi ed entravi. Ricevevano carabinieri, ricevevano i CB e a tutto volume, ti puoi immaginare la sera, premevi la portante e parlavi come stiamo facendo adesso, e questo qua a fare il televisore con tutti i watt, con tutti i 5-10 watt del televisore in casa, ed era di Zanussi, Rex, quella marca lì che aveva fatto un casino. Te lo ricordi, Claudio? E me lo ricordo anche io, ce l'ho avuto anche io col televisore di Rexon. E avevo quella manopola sopra che delle frequenze che prendevi la Spagna, la Francia, televisori strani, anche se si vedevano appuntini però li vedevi. beh, per questo non è ricevibile da CB, eccetera. In bassa frequenza. Sì, più di una volta l'ho sentito. Infatti, però di natalino è risolvibile con una forte schermatura del segnale da parte sua, un difiltro, e poi anche buon cavo e antenna alta. Dipende questo cosa c'ha, certo se non c'ha massa, ad esempio sull'antenna è una guerra persa, e lì come fanno molti conviene andarci, ascolti, guardi, le cambio il cavo io, se è possibile, se non è perfetto ammazzi ovviamente, le cambio il cavo, le metto una centralina regolata ad asse, se centralina ci vuole, perché in molti casi non ci vuole. Il discorso è chiuso, se uno solo, se sono più di uno allora il problema è diverso. Gianfra, c'ho due filtri anti-TVI qua, devo uscire con 4 watt perché sennò se alza appena appena li disturbo. C'hanno le antenne incasinate, gli altri come mai non li disturbo? Ma il problema è quanti sono sullo scialturare, c'hanno i televisori incasinati o c'ha l'antenna incasinata, cioè è più di uno questo? Due sono. Nello stesso palazzo? No, distanti. Antenna vecchia? Sicuramente incasinata, chi distribuiva lo primo è un po' più incasinata l'antenna, sarà senza massa, cosa ne so. Cioè, poco sta piovendo. E non è messo. Ma Gianni ancora non ha portato il cane, io glielo ho già portato. Per una volta che ce lasciamo, no? No, dovete sapere su che canale lo fa, se lo fa sul primo Rai ad esempio, oppure su canale 5 che sono tutti in un HF. Oh, io vi saluto, dai, ciao a tutti, che io mi devo muovere. Ci sentiamo ragazzi, buona continuazione in questione. E ciao già. A uno addirittura dice che gli disturbo, che gli blocco il computer quando parlo. Perché è una voce miracolosa. Perché mi stanno rompendo le balle, il giorno mi rompono le balle, non so cosa faccio, prendo il fucile e gli sparo le antenne. E così avremo finito di quei ba. Esagerato. Poi fa rumore, se dovessi usare una carabina o un silenziatore che fa più effetto. Ciao Gianni, buona serata. Alle prossime. Sì. No, devi sapere dove disturbi, se disturbi tutto il televisore, tutte le frequenze o... Ma se questo dice anche il computer, cacchio, se sono case vecchie, secondo me questi non hanno neanche la massa a terra, guarda. Vero Gianfra, ciao già, è impossibile disturbare il computer, entrare proprio nel sistema di computer, c'è chi glielo blocca, capisco la voce nelle casse, ma proprio a bloccare il computer può essere. Dice non gli funziona più il mouse, tutto un casino, dice che li blocco. Ma cioè, che li facevo? Adesso ci ho messo due neo di filtri anti-TVI addirittura, uno a Seychelles mi sembra, e l'altro uno di quelli normali, comunque li ho messi tutti e due per il sicuro. Vabbè, il filtro sicuramente, poi bisogna vedere se un filtro passa basso o un filtro passa alto, ma sicuramente sarà passa basso, che taglia tutte le frequenze oltre 30 di norma, oltre 30 MHz le taglia tutte. Secondo me questi non hanno massa, guarda, è un classico, perché tre fili, sai, sono brutti da vedere, perché metterne tre se ne può mettere due, tanto la quanto in tre passa lo stesso, ragionano in quel modo, no? Oppure c'hanno la massa ma non è collegata, un altro caso tipico, e quindi siccome la massa sugli apparati fa anche la schermo, se non la metti è chiaro che ci sono più probabilità di avere questi disturbi, però è tutto lì il problema, è il rapporto che siamo con queste persone, andare a dire ma mi faccia vedere cosa succede, vedere la natura del problema, vedere cosa ci ha attaccato, perché il mouse è facilissimo che si impalli, perché sicuramente c'è uno di quei mouse da 4 soldi che lavorano in 27 mega, è ovvio che quando premi quello lì si imballa immediatamente, ma è naturale, no? Figurati un po'. Io ce l'ho, guarda, il computer davanti qua, non riporto una striscia né al monitor né al televisore mio, nulla. A questo che disturba addirittura io ho l'antenna mia piazzata sul suo palo. A me non mi disturba, a lui sì. Però non posso salire a controllare nulla, il padrone di casa ha detto a non toccarlo assolutamente. A toccarlo assolutamente non può dire, quello paga il canone e quindi c'ha diritto di accedere per riparazione alla penna, questo non sembra di dubbio. Quindi lo deve fissare da persona civile un appuntamento e dice guarda io ci sono in casa domani alle 10 a quello che è, venga a quell'ora, salga sul tetto, faccia tutto e poi se va tutto bene arrivederci, grazie, non è che possa dire no non si può toccare niente. Quello può dire il padrone, non lui. No, non vuole toccarlo assolutamente, quindi io non sono potuto salire per quel motivo, perché non vuole toccare assolutamente l'antenna, il padrone di casa mi ha detto questo qui, cioè, a questo che lo disturbo, siccome lui è inquilino, però il padrone di casa ha detto non toccare l'antenna. A me la mia me l'ha fatta mettere su quel palo un inquilino che c'era prima, perché qua io non ci posso salire sul tetto, infatti c'ho l'antenna anche un po' bassa per quello. Ma scusate, dai, riprendo io e chiudo, dai, che qua consegniamo il vostro televisore, che se no rimangono senza. Se va, se no ce lo buttano e così me lo vado anche a cenare, dai, alla prossima, ciao ragazzi, ciao. Ciao Luca. Ciao Luca, buona serata. Ciao a voi, ciao Cla, ciao a tutti, ciao Gianni, ciao. Ciao, di essere stato lontanato. Capito Nathalie, qua non è neanche, se vogliamo dirla tutta, non è neanche un problema tecnico, che magari è banale, è una cazzata, ma è capace, più una volta si sono trovati cavi d'antenna in cui la massa praticamente non c'era, era isolata, hanno collegato solo il centrale, ma è chiaro che se così il centrale, se per di più c'è un amplificatore sotto, succede di tutto di più. Quindi tutto sta a vedere cosa è successo sull'antenna, ma se non si può fare il discorso è chiuso all'inizio, capito? Cioè tu le puoi dire anche per dire guardi dobbiamo passare alla controlla gratis, non deve pagare niente, ma se non può entrare una persona buonanotte al secchio e la guarda passa in partenza. Allora l'ultima volta mi ha minacciato che mi chiamava le scopposte perché lui è un tecnico e sa come funziona. Qua il giorno che mi rompe le scatole tolgo tutto qua, metto tutto a manetta, lo disturbo a morte, poi mi chiami chi vuole. Ma infatti quella sarebbe una soluzione. Tu dovresti, allora innanzitutto ovviamente, chiaramente, un apparato omologato, con tutti i crismi, eccetera, perché se no, sai com'è, se vengono, no, c'è poco da fare. Ma se tu c'hai l'apparecchio omologato, regolare, tranquillo, le dici e ascolti, tanto in città bastano 4 watt, quindi non c'è questo discorso di uscire con 10, 20, sono 3 cavolate, io di norma esco con 2, 3 mi sento, le dici chiamare pure l'escoradio, e dici guarda, lei c'ha quel problema, per me non ci sono problemi, li chiami, se no lei non farà mai televisore, sono autorizzato, io sono sicuro che non sto disturbando perché non disturbo né il mio né quello degli altri vicini, le chiami, io sono disponibilissimo a qualunque controllo. Dopodiché se le chiama a vuoto, quelli le manderanno il conto a casa e saranno cavoli suoi, vuol dire che chiamerà un tecnico e si farà guardare l'antenna sul serio. Il discorso è solo lì, se non ci puoi fare niente, diglielo, chiami l'escoradio, io sono qua, mi dice quando vengono, quelli mi chiamano, dico guardi stiamo venendo, che problema c'è? E a uno addirittura mi sono offerto di rifargli l'antenna a mie spese, io, e me l'ha proibito. Di più ne vuoi Gianfra? In più io ho l'amplificatore nell'antenna TV, dovrei disturbare a me pure, perché l'antenna mia è sul palo di quello che io disturbo, eppure a me non mi disturba e a lui sì. Ti ho detto che il problema non esiste, se la gente non vuole capire come sono le procedure, si arrangi, è colpa loro. Tu sei in regola, c'hai l'omologato, c'hai l'impianto fatto ad arte, sì. Non ti disturbi, sì, non c'è nessun disturbo né sul tuo televisore, eccetera, eccetera. Benissimo, tu hai fatto il tuo dovere, adesso quello lì, se insiste, le dici, guardi, se mi rompo le palle, ma senza stare così proprio a litigare, che sono questioni banali, e ci guardi, se insiste, io le metto l'avvocato, le faccio fare una lettera di diffida, perché lei mi sta calunniando, dopodiché, se andiamo in causa, l'avvocato solo farà lì con tutte le spese, altro che a te, ma le costa. Poi in altri parti fa lei, chiami pure i tecnici della postale, vengono a casa mia, mi avvertono, mi dicono quando vogliamo venire, fanno i controlli, come si dovrebbe fare di norma in questi casi. Dopodiché le dicono verbale, una coppia a te e una coppia a loro. Dopodiché lui può, se si attacca al tram, anzi se non sta attento le fanno pagare anche la visita a lui e così le sta bene. E sono salate quelle con interventi. Lo so, si deve muovere una macchina da Cagliari, a bisogno mi hanno detto che l'intervento costa 600 euro, mi sembra. Quelle sono le cifre. Certo, non devi fare tu devi dire solo, per me non c'è problema, io sono qua a casa, tanto ti chiamo, dico guardi signor Tizio Caio, noi stiamo venendo, ci apro la porta, ci faccio vedere la stazione, tu li fai entrare, ecco qua, fate tutto quello che volete, accendete, mettete strumenti, fate tutto quello che volete, loro controllano, poi fanno da quello lì che ha fatto qualcosa, ascolti, accende il televisore, uno su un lato e l'altro trasmettere, scusa, le dico, signore caro, allora si cambia l'antenna e in più paghi la fattura dell'intervento. Perché così? Adesso se mi rompo le scatole prendo, perché non lo sto più disturbando, amico, con questi filtri, non lo disturbo, se no subito veniva a rompermi le scatole, amico. Infatti ho abbassato tutta la potenza e ho messo questi due filtri anti-TVA proprio per non disturbare, tanto mi sentono a Sassari, con 4 watt a voglia. Ah, guarda me che sono in periferia, sei 9:15, quindi un segnale abbastanza forte. E infatti, però dico, anche con l'omologato li disturbavo. Comunque, ripeto, l'importante è che l'apparato sia omologato, poi tutto l'altro è sono cose relative. Se questa l'antenna non si la tocca, l'antenna è esposta al vento, all'acqua, alla corrosione, quindi può capitare di tutto. Però la stronzata fanno tanto casino. C'è di differenza, è l'antenna mia e di quelle tipo nuovo che sono per il digitale terrestre. E loro hanno le antenne vecchie, terrestre, non ci sarà massa, cosa vuoi che ti dica? Non me l'hanno fatta controllare. A quello il primo, siccome è un uomo anziano, poverino, mi dispiaceva disturbarlo, Gianfra, sono andato e gli ho detto che gli volevo fare l'antenna io, a mie spese. E mi ha detto di no, mi ha detto. Boh, adesso dimmi tu. Forse è rientrato Claudio. È certo che, guarda, fare da bricco, un'antenna costa 10 euro, 10, 15 euro, ne metti tutte e due, o anche una sola, va bene, dipende dal segnale che arriva, ma so proprio qua. Ahia, vabbè, Claudio, ci sei, riprendi. Sì ragazzi, ci sono, però vi saluto che dai, è già pronta la cena, voglio cena un po' prima, tanto è brutto, eccetera eccetera. Vi saluto, grazie a tutti delle due chiacchiere, ciao Gianfranco, Natalino, Gianni sia l'ascolto, Luca, insomma tutti quelli che sono all'ascolto su 10, dai, ci sentiamo domani, ciao a tutti, buonanotte, vai Gianfranco. Sì Claudio, me la stavo dimenticando quando ho messo l'occhio sull'apparato. Ascolta, una comunicazione di servizio, Claudio, se ti interessa, se vuoi partecipare a fare delle prove, cioè abbiamo il nostro ponte che stiamo testando, che è un R19, con tono a 74,4. Se ti capita occasione di provarlo, piacere, ecco. Ma chi c'è, tu? C'è un sacco di gente, ci sono io, Antonio, non c'è nessun altro per adesso. Non ho capito, vabbè, se mi capita anche se io... c'era un bel po', sai, che non trasmetto né nei punti né nessuna parte, però ascolto molto volentieri. Vabbè, ok, quindi è 145 7 795. No, no, è in UHF, UHF, ti dico la frequenza, così se ti capita lo puoi provare. Allora, la frequenza in UHF è in trasmissione 431-325, in ricezione 430-225. Ripeto, volevo ripetere, è scappata la schermata. Comunque hai preso nota, sì. Sì, ho preso nota. Va bene, Giaffra. Va bene, se capita, adesso le radio in uso sono un po' da rimemorizzare, comunque poi domani mi metto stata 4.4, va bene. Va bene, d'accordo, dai, ci aggiorniamo, ok? Ciao a tutti, buonanotte, grazie delle chiacchiere, a domani, ciao ciao. Ok, poi quando magari mi sento, tanto io sono sempre qua in ascolto, fa una chiamata e possiamo, lo vediamo anche insieme, com'è. Anche un portatile, tanto dovrebbe arrivare lì da te. Ciao, buona cena, riprendi la tanto. Ciao Clara e Bruce, va, anch'io me la chiudo. Ciao Gianfra, me ne vado anch'io a cena, va, lo prossime. Ok, anch'io mi avvio oggi molto tardi per me. Allora, ciao, va bene, capito, comunque Natalie, non ci litigare, è tempo messo, sei gente tonda. Dille, ascoltate, fate quello che volete, chiamate anche la guardia penatoria, i baraccelli, chi volete, io sono a casa. Tutto lì. Ok, ciao, buona cena, buona serata a tutti. Ciao, ciao, ciao.